Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. In Sargante il traghettatore cominciamo parlando di parco tecnologico scientifico. Si chiama Como Next, compie 2 anni, ha 40 aziende innovative al suo interno, 250 persone che ci lavorano. Noi lo citiamo perché? Perché è anche un parco tecnologico sostenibile. Ado Franchini, che è dello studio ADM di Milano, professore del Politecnico, ci spiega perché è sostenibile questo parco. Questo parco è tendenzialmente partito con l'idea di risparmiare suolo, di riusare volumi industriali esistenti, usando poi al suo interno, nella riqualificazione, materiali naturali e riciclabili, tentando un contenimento dei consumi energetici, introducendo produzione di energie rinnovabili e quindi cercando di avere dei costi di costruzione e di gestione bassi. In particolare, secondo me, la riqualificazione urbana per usi civili delle aree industriali è un concetto sostenibile perché fa risparmiare suolo e recuperare volumi esistenti. 40 aziende innovative e parco scientifico tecnologico. Ci spieghi come si coniugano queste due cose? Cosa vuol dire parco scientifico tecnologico? È una parola un po' complessa, ma significa semplicemente una nuova idea di fabbrica, una fabbrica delle idee e delle produzioni di queste idee. L'obiettivo è quello di creare condizioni per far nascere nuova imprenditoria innovativa, giovanile ma anche non necessariamente solo di giovani. È un modello di sviluppo che nei paesi anglosassoni e tedeschi c'è da molto tempo e che poi ha creato tutte le nuove aziende innovative, non solo tecnologiche ma anche manifatturiere. L'Italia è un paese manifatturiero, quindi non si tratta solo di nuove tecnologie o di computer, ma di come usare questi strumenti per produrre nuova manifattura. Queste 40 aziende innovative, abbiamo ancora qualche secondo, vuole citarcene qualcuna, giusto per lasciarci, come dire, intravedere il tipo di attività che si svolge? Per esempio all'interno del parco c'è un centro sviluppo della realtà virtuale, che è in sostanza un'azienda che riesce a produrre in forma tridimensionale gli oggetti e i luoghi nei quali si può entrare in maniera virtuale, ma le altre aziende sono tutte aziende che si occupano per esempio di sviluppo dei programmi per il risparmio energetico, oppure addirittura di applicazione dei programmi, oppure di ingegneria elettronica, oppure anche di cose più semplici legate all'applicazione e all'uso di tecnologie già esistenti ma applicate alla vita quotidiana. Grazie, non ho interrotto perché in effetti il tempo è stato chiarissimo. Ci risentiamo magari l'anno prossimo al terzo anno di età, speriamo che questi numeri siano ancora, testimonino sempre di più il successo del parco scientifico tecnologico. Grazie al professor Franchini. Parliamo di energia adesso, energia rinnovabile, ma per una volta non dal punto di vista della produzione ma dal punto di vista estetico. Chi l'ha detto infatti che le energie rinnovabili, che i pannelli solari piuttosto che le pale eoliche, debbono essere brutte? È nata un'associazione che si chiama Energitismo, che invece pensa che possa essere una nuova stagione anche dal punto di vista industriale per il nostro paese. Claudia Bettiol, ingegnere tra i fondatori di Energitismo. Buongiorno Claudia. Buongiorno. Energitismo nasce e si occupa di? Energitismo nasce un anno fa e si occupa di promuovere tutte quelle imprese che realizzano prodotti sostenibili ma che sono belli. La nostra punto di partenza era che l'energia distribuita entra nelle case e che quando si entra nelle case il criterio con cui vengono selezionati i prodotti non è più solo quello della produzione di energia o dell'efficienza, ma anche quello dell'estetica. Ricorda un po' le grandi stagioni del design italiano, no? È cominciata così la grande avventura italiana nel mondo del design. È quello che ci auguriamo. Noi partiamo da Vicenza con una mostra che sarà dal 6 al 20 di ottobre. Adesso abbiamo in piedi una chiamata chiamando professionisti e imprese che conoscono, che realizzano prodotti eleganti e sostenibili per segnalarli in modo da poterli mettere nella mostra. Ma l'idea è quella di far partire poi con tutti questi prodotti un nuovo rinascimento italiano. Avete trovato già qualcosa? Avete già trovato delle aziende, dei prodotti che hanno, che si possono definire belli? Ti posso dire quelli che hanno già risposto. Uno è una pala eolica veramente bella, realizzata in fibra di carbonio e legno lamellare nelle lame e in titanio come palo portante. Un'altra è un'impresa che realizza fuel cell e che per mostrarle all'interno delle abitazioni le ha coperte con vetri di Murano. Quindi diciamo ci sono diverse proposte interessanti che stanno nascendo. Beh, un'altra evidente motivazione, immagino, di questa iniziativa, Claudia, è che visto che non possiamo competere sul piano dei costi, per esempio, con la produzione cinese dei paesi dell'est, almeno competiamo sul piano della bellezza, dell'eleganza e dello stile, appunto. Non solo, noi abbiamo visto nell'ultimo tempo che le imprese cinesi sono state capaci di far fallire imprese americane finanziate da Obama per miliardi di dollari, o le imprese tedesche che avevano consolidate con know-how e esperienza. Le imprese cinesi non possono competere sulle piccole produzioni o sulle produzioni di nicchia, dove invece i nostri artigiani tecnologici fanno la differenza. Bene, ci sentiamo a settembre, così sentiamo qualche altra novità che avete nel frattempo raccolto in giro per l'Italia. Grazie a Claudia. Molto Bettoli. Volentieri, grazie. È tutto per oggi, vi ricordo le pagine Facebook di Ferribot, grazie ad Anita Panizza in redazione e a Filippo Aureggi in regia.